9 in punto, la versione di Oscar. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no, tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io. Buongiorno, no, cari ascoltatori, buon venerdì, no, 7 no, settembre. Oscar Gianino vi saluta. San grato, e a chi siamo grati oggi se non a Mario Draghi, la stampa italiana trabocca, perché vengo anch'io, no tu no. Ieri pare che il presidente della Banca Centrale Europea abbia quasi costretto a non metterlo più, insomma, nei prossimi giorni. Se continua così, Giannino verrà travolto, gli ottimisti vincono, tutto il problema è risolto. E San grato è esattamente il santo giusto per dire a Mario Draghi tutto ciò che l'europolitica non ha fatto in 2 anni. Per fortuna il presidente della BCE lo fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? E però perché no, continuano a dire molti tedeschi, moltissimi tedeschi. La stampa tedesca questa mattina è interessante da vedere, perché commenta la decisione della BCE in una maniera un po' diversa dai giornali italiani. Che ne so, Holger Stern sul Frankfurter Allgemein dice che questo significa che la politica monetaria è finita come indipendente rispetto alla politica. Ha vinto la politica, ma ha perso la Germania. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. E passiamo invece alla Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche Zeitung, che è un giornale, diciamo, più vicino alla sinistra, centrosinistra, rispetto alla Frankfurter Allgemeine. Mark Bays difende anche lui la Bundesbank, cioè difende Weidmann, che ha votato no a Mario Draghi. E perché? Perché dice che in realtà la decisione della BCE, sì, tecnicamente è ben fondata, tutto quello che si vuole, ma insomma non lascia più spazio se non alla tesi di chi dice bisogna salvarli i paesi che non sono stati rigorosi. E capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? E infine, infine, lo Spiegel sul suo sito, lo Spiegel sul suo sito, quale reazione ha la decisione della BCE di Mario Draghi? Quella di un sondaggio nel quale il 54% dei tedeschi dice che il 12 settembre, quando i giudici della Corte Costituzionale Germanica devono pronunciarsi sulla compatibilità tra il salvo stati e la legge costituzionale tedesca, dicono il 54% dei tedeschi: Corte Costituzionale, facci votare, facci dire no a questi italiani spreconi. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io. Ecco, sul tuo funerale io mi fermo, perché è meglio sospendere la canzone, perché come è evidente ho dato un po' di bollicine, per così dire, al report dei giornali tedeschi, che come vedete però hanno un tono, ci si può dividere in due. Possiamo pensare che anche in Germania l'avvio della campagna elettorale, che sarà lunga perché si vota per le politiche nel 2013 in Germania come in Italia, anzi dopo che in Italia, prevede, come vedete, molte concessioni alla pancia dei tedeschi, dell'elettorato tedesco. Ieri avete sentito, Monti è andato a un vertice del Partito Popolare Europeo a Fiesole, dove ha notato che non solo nei partiti italiani del PPE, cioè l'UDC e PDL, ci sono troppi toni antitedeschi, ma rivolgendosi ai tedeschi ha detto la stessa cosa parlando della CDU-CSU. Ha detto le campagne elettorali sono fatte apposta per fare montare istinti nazionalisti in Italia contro la Germania e in Germania contro l'Italia, e questo sicuramente spiega un po'. Però dall'altra parte vorrei invitare tutti, oggi non approfondiamo l'apparato delle decisioni prese dalla BCE. E sicuramente Mario Draghi ha tenuto fede agli impegni che aveva assunto a luglio, più di un mese fa, e che il mercato aveva preso sul serio, tanto che ad agosto i mercati hanno sostenuto in realtà bene gli spread, perché hanno preso in parola l'impegno di Mario Draghi, che aveva annunciato faremo tutto il necessario per evitare l'eccesso di divergenza nel rischio sovrano. E questa linea è passata con l'unico voto contrario, lo avete visto, difeso dai giornali tedeschi, del presidente della Bundesbank, mentre l'altro tedesco, Asmussen, membro del comitato esecutivo della BCE, ha votato a favore, come il governo Merkel in realtà è a favore dell'interpretazione che Draghi ha dato dei poteri della BCE. Acquisti fino a 3 anni dei titoli, senza per questo sovvertire la creazione di base monetaria, acquisti sterilizzati, non illimitati come si scrive, ma senza dare ex ante una quantità degli acquisti, in maniera che il mercato non si possa regolare e sfidare la BCE, e allo stesso modo senza comunicare ex ante il livello dei rendimenti, cioè degli spread, oltre i quali scatta l'acquisto automatico, anche qua per non mettere la speculazione in grado di approfittarne. Però quello che è essenziale e che i giornali italiani approfondiscono un po' poco, io ho commentato la cosa sul Messaggero, sul Gazzettino per chi fosse interessato, è che la condizionalità di questi acquisti è comunque vincolata ad aiuti e anche all'intervento del Fondo Monetario. Ergo, inutile che l'Italia si illuda. O l'Italia ha una politica che abbatte il debito pubblico con attivi propri, pubblici, in fretta, rapidamente e senza questi avanzi primari folli che inchiodano la nostra crescita, oppure in ogni caso, all'ordine del giorno resta il fatto di andare sotto condizione vigilata, cioè richiesta di aiuti, compreso il Fondo Monetario Internazionale. Ed è questo che la politica italiana dovrebbe capire in questi prossimi mesi, perché è la richiesta che resta sul tavolo anche del governo Monti. Allora, liquidiamo questo punto importantissimo, che non liquidiamo, ci dovremo tornare sopra nei prossimi giorni, vedremo i mercati andranno bene per un po', ma poi rendetevi conto che la condizionalità degli aiuti, sia per gli spagnoli prima che per l'Italia, resta il vero punto con cui fare i conti. Oggi invece ci occupiamo di un viaggio in una specie di film, non voglio chiamarlo del terrore perché sarei poco rispettoso per tutti voi che ascoltate, ma insomma, in questa condizione delle famiglie italiane piegate, in questo che è l'anno in cui la perdita del loro reddito disponibile è il più severo, è la più severa, perdonatemi, di tutto il secondo dopoguerra, perché quasi 3 punti di perdita del reddito disponibile in un solo anno non si erano visti da allora. E questo che si spiega con l'aumento della disoccupazione, come ovvio, con l'enormemente accresciuta pretesa fiscale dello Stato, come ovvio, col problema del credito che non c'è più, purtroppo, come ovvio anche questo, modifica tutta una serie di cose, modifica il comportamento degli acquisti delle famiglie italiane, modifica i loro stili di vita. Avete visto che per la prima volta siamo riusciti da un'estate in cui gli italiani sono andati massicciamente meno in vacanza sia a luglio che agosto. Ci sono regioni come la Toscana, il Friuli Venezia Giulia in cui il calo ad agosto è stato tra il 12% e il 15%, quindi queste sono radicalità di discontinuità, sono discontinuità radicali di una tale intensità che ci consegnano non la classica crisetta congiunturale, al quinto anno di durata la schiaffo, la sberla purtroppo sulla faccia, nelle tasche, nel cuore, nella mente degli italiani è così forte che ne modifica fortissimamente il profilo, l'orizzonte di vita, le motivazioni con cui si affronta ogni giorno la vita. E noi lo affrontiamo grazie al fatto che è uscito ieri un bellissimo rapporto curato dalla COP, rapporto COP 2012 su consumi e distribuzioni, che attraverso la fotografia realizzata da praticamente la più grande catena di grande distribuzione italiana, si pone solo, non solo il problema di fotografare il comportamento di consumi degli italiani, di dirci che cosa hanno consumato meno di fronte al fatto che il portafoglio piangeva, ma dà un'interpretazione generale proprio, e che mi è sembrata molto molto interessante. Abbiamo con noi Vincenzo Tassinari, che è il presidente di consiglio di gestione di Coop Italia, e lo ringrazio di essere con noi. Buongiorno Tassinari. Buongiorno a lei e a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, prima di capire, di iniziare insomma un po' da che cosa si consuma di meno, ci vuole sintetizzare un secondo la parte che riguarda proprio, come devo dire, la condizione delle famiglie rispetto all'impatto, l'impatto della crisi, l'impatto della manovra? Io lo ricordo a tutti, ma siete voi a ricordarlo, in realtà, che è stato fortissimo, cioè nel 2000, tra un paio d'anni, quando si cumuleranno ancora tutti gli effetti delle manovre, qui saremo con 4.000 euro di impatto a famiglia, quindi insomma uno sforzo terribile rispetto a una media che è di poco superiore ai 20.000, in alcune regioni addirittura inferiore ai 20.000, quindi pro capite, quindi stiamo parlando di un impatto fortissimo. Com'è la fotografia delle famiglie nel vostro rapporto annuale? Ma è una fotografia dove le famiglie sono diventate, diciamo, degli acrobati della spesa, degli scienziati, sono in crisi, il potere d'acquisto, come diceva lei, è fortemente diminuito e quindi la disponibilità all'acquisto è fortemente diminuita e abbiamo un calo dei consumi che è molto importante, quindi è matematica, meno reddito disponibile e meno consumi. Meno consumi vuol dire meno produzione, vuol dire meno lavoro, meno investimenti. Ecco, noi facciamo una fotografia dove cerchiamo di dire la crisi italiana dell'economia che è in recessione batte sulle famiglie italiane, sui consumi e quindi è una crisi che va rilanciata perché è un volano fondamentale quella della ripresa dei consumi. Senza ripresa dei consumi non c'è ripresa economia. Quindi noi diciamo attenzione, le famiglie italiane spendono meno, sono molto più intelligenti, sprecano molto meno, quindi quantità e volumi di spesa in meno, ma anche una spesa più intelligente che tenga comunque il prezzo in termini di convenienza come elemento importante, ma salvaguarda anche dei valori, di qualità, di salubrità. E quindi noi dobbiamo essere capaci di intercettare questa tendenza di consumi che è in diminuzione, che però è una tendenza anche rigorosa e intelligente. Allora, voi faccio una specie di radiografia, perché naturalmente non solo c'è la tendenza generale della società italiana che invecchia e come è ovvio che a più di 65 anni spende la metà di chi ha tra i 35 e i 49, ma qui siamo di fronte al fatto che oramai scende la spesa delle coppie giovani, c'è una generazione intera tagliata fuori dalla possibilità di entrare e chissà forse non domani neanche da rientrare sul mercato del lavoro, quello dei giovani e giovanissimi, e contemporaneamente c'è un problema di concentrazione degli effetti della crisi manifatturiera per le filiere che saltano sopra la soglia 55 anni. Ecco, in questa fascia in cui i consumi si comprimono per effetto della crisi, al di là del fatto che per la classe di età di appartenenza dovrebbero essere più elevati, che cos'è che salta fuori? Che cos'è che a cui si rinuncia in cambio di che cosa quando si va a fare la spesa? Chiaramente in questo concetto che abbiamo fotografato di consumatori acrobati della spesa c'è una tendenza al risparmio molto forte. Questa tendenza al risparmio noi abbiamo calcolato... Aspetti che la interrompo, perché una cosa importante da dire a proposito di risparmio è che contemporaneamente il risparmio è sui consumi, eppure gli italiani sono in discesa del tasso di risparmio complessivamente, a differenza di altri paesi nella crisi dove invece il risparmio aumenta, perché la discesa, la compressione del reddito disponibile è tale che per quanto per paura si voglia risparmiare di più e quindi ci si tiene stretti sui consumi, come stava dicendo lei, comunque il calo di reddito disponibile è tale da incidere anche il volume della fetta di reddito disponibile da mettere nei risparmi rispetto a quello precedente. E questa è un'altra fotografia dell'anomalia italiana rispetto agli altri paesi. Ma andiamo al risparmio sui consumi di cui si stava parlando. Sicuramente il ragionamento che lei ha fatto ha una grande fondatezza e indubbiamente che il risparmio dei consumatori, noi abbiamo calcolato, è circa 1 miliardo complessivamente di euro, l'1,7%, quindi noi abbiamo un calo dei consumi che è dovuto anche a questa tendenza al risparmio. Questa tendenza al risparmio è fatta, diciamo, di un mix, ecco, di scelte che il consumatore fa, sceglie canali distributivi più convenienti, indubbiamente, sceglie marche di prodotti che possono essere più convenienti, mantenendo la qualità, qui sta crescendo molto il prodotto a marchio commerciale delle imprese distributive, come succede nel resto d'Europa, sceglie prodotti di natura diversa anche, e quindi a parità di qualità e di contenuti nutritivi, comunque sceglie prodotti che sono ovviamente più convenienti. Faccio l'esempio della carne bovina, è chiaro che prima i consumatori italiani consumavano 2 fettine, oggi consumano una fettina e un hamburger, perché costa meno un hamburger anteriore. La tendenza è purtroppo anche che possa consumare 2 hamburger. Quindi c'è questa capacità del consumatore di purtroppo non arriva alla fine del mese, e quindi il discorso che fa lei appunto del reddito disponibile che è calato e che quindi erode anche il risparmio è dovuto al fatto che non arriva alla fine del mese. E su questa necessità di invece arrivare alla fine del mese è chiaro che questo consumatore diventa l'acrobata, diventa lo scienziato della spesa. Ecco, io ricordo a tutti che nella media, ovviamente, per questo attenti alle medie, però insomma secondo le rilevazioni Istat più fresche, noi abbiamo un 2012 in cui, un inizio 2012, perché questa in realtà è la campionatura relativa ancora a tutto ciò che resta dei milioni di questionari per il referendum trattati alla fine quindi dell'anno scorso, siamo in una condizione nella quale solo una famiglia su sei dichiara una capacità rilevante, sensibile. Il rilevante non significa una percentuale elevata, significa sensibile, costante nei mesi di capacità di risparmio, solo una su sei per essere chiari, quindi significa che 5 su 6 dichiarano di non essere in queste condizioni. Questo perché la propensione al risparmio è una delle classiche indicatori di due cose: primo, fiducia; secondo, capacità, possibilità reale di avere risorse poi da tornare a investire nel proprio bilancio familiare ma anche nel complesso dell'economia italiana. Ora, tutto questo rispetto quindi questa nuova austerità del consumatore che deve fare il funambolo, ecco, per sopravvivere alla crisi, come dite voi, che impatto ha sul tipo di distribuzione commerciale italiana? Perché c'è un capitolo che dice che in realtà tutto questo ha avuto un impatto di frenare la grande distribuzione nel nostro paese, ma riguarda tutto il paese, riguarda solo alcune aree e meno altre? Perché di solito si dice la struttura distributiva commerciale in realtà è uno dei settori a bassa produttività che aggrava il gap rispetto agli altri paesi. E la crisi cosa fa? Amplia questo gap? Uccide migliaia di piccolissime imprese commerciali? Oppure che cosa provoca nel vostro mondo? Beh, questo diciamo della questione dei piccoli esercizi, che la grande distribuzione uccide i piccoli negozi, ormai è una leggenda. Il paese Italia deve modernizzarsi così come in Europa, ed è indubbio che l'Italia come quota della distribuzione moderna è molto inferiore a paesi più evoluti come l'Inghilterra, la Francia. Però il problema appunto che lei ha sottolineato è diverso. Effettivamente la distribuzione moderna, io amo chiamarla così, è un po' in trincea con la crisi economica e quindi con la crisi dei consumatori, e quindi noi risentiamo fortemente. Quindi tengo conto anche che la COP si sviluppa su tutto lo stivale italiano, dalla Val di Fiemme alla Val di Noto, e per cui abbiamo un osservatorio molto esauriente a riguardo. E la crisi tocca sicuramente maggiormente il sud Italia e le isole. Qui è veramente un problema di allargamento di una forbice molto preoccupante, dove il calo dei consumi che noi avvertiamo nel meridione d'Italia è il doppio, circa il 5% di quello che registriamo nella media nazionale e nel nord Italia. Però è anche vero che nel nord Italia, laddove ci sono crisi industriali, crisi quindi di lavoro, indubbiamente anche qui noi avvertiamo il segno meno. Poi è vero che ci sono delle realtà eccellenti, è vero che ci sono delle realtà distributive che stanno attraendo consumatori, vedi i discount, vedi anche certi modelli di supermercati di qualità. È vero che la grande superficie, l'ipermercato, è in crisi, ma è in crisi perché soprattutto avendo un'offerta molto nel non alimentare rispetto alla sua domanda iniziale, il crollo che noi registriamo è appunto i mercati che noi definiamo di sostituzione, per cui abbigliamento, per cui l'elettronica di consumo, quanti televisori si cambiavano, quante volte i telefonini comunque diventavano obsoleti dopo 3 mesi. Ecco, qui c'è il crollo significativo, per cui abbiamo tipologie di vendita che stanno tenendo, altre che sono in difficoltà, la forbice fra le regioni italiane e dei consumatori italiani si allarga, e indubbiamente i mercati che risentono di più di questa crisi di consumi sono quelli di sostituzione, quindi soprattutto nel non alimentare, dove abbiamo un calo purtroppo preoccupante sull'ordine del 10%. Ci sono dei settori che mi hanno un po' colpito, perché di solito si dice che nella crisi il benessere del corpo, la cura individuale è un classico settore anticiclico. Avevo presente che ovviamente invece la cura della casa, per così dire, fosse un classico settore in cui si sta più attenti nel comprare i prodotti, ma non credevo una crisi del consumo a doppia cifra come quella che voi dichiarate nel vostro rapporto. Cioè i detersivi, per esempio, un calo a doppia cifra nei detersivi fa pensare. Beh, qui dipende molto anche la crescita di un mercato distributivo che dirotta molto su specializzati. Però è indubbio che nella cura persona e della casa noi registriamo questa diminuzione, quindi è veramente significativa. Però veda, credo che emerga dal nostro rapporto un dato anche abbastanza significativo. È vero che il consumatore italiano cerca la convenienza, ma è anche vero che noi non vogliamo assolutamente pauperizzare l'offerta, quindi il prezzo basso a tutti i costi, perché noi abbiamo dei segnali molto importanti, soprattutto nei prodotti della nostra marca, laddove c'è il BNC, quindi il benessere della persona, laddove c'è il viviverde, la tutela dell'ambiente, dove c'è anche il fiorfiore, l'alto di qualità, noi abbiamo una crescita a due cifre. Quindi questo significa che il consumatore italiano cerca la convenienza, ma vuole mantenere la qualità, vuole mantenere il rispetto dei valori, vuole mantenere un modo di mangiare, soprattutto italiano, di prodotti italiani, di origine italiana, che è un dato significativo. Quindi questo significa che per il futuro noi dobbiamo provare a interpretare queste tendenze di consumo, che non sono contingenti ma diventano strutturali, e quindi nella strutturalità bisogna assolutamente cercare di dare quei contenuti di prezzo indubbiamente indispensabili in una fase di crisi economica, ma anche di rassicurazione di valori. Senta, le faccio un'ultima domanda perché so che poi ci deve abbandonare prima della pubblicità. È possibile immaginare che oltre alle sante sberle che vi date da decenni con tanto di battaglia giudiziaria nel versante italiano, grandi gruppi contrapposti, diciamo così, della grande distribuzione italiana, Coop, Esselunga dall'altra, si possa pensare un giorno a fare quello che per esempio i francesi hanno fatto da tanti anni con tanto guadagno per l'integrazione e la promozione verticale delle loro filiere nei grandi paesi che hanno grandissimi consumi e che naturalmente sviluppano una grande attenzione per i prodotti di paesi che hanno grandi filiere, per esempio agroalimentare o della moda come l'Italia, ma io sto parlando dei francesi, sto parlando dell'esempio di Auchan e di Carrefour, perché in Italia non abbiamo mai visto una grande struttura, una grande distribuzione come voi che va all'estero e fa quello che loro fanno per le loro filiere. Io ogni volta da sostenitore dei prodotti italiani prendo la testata e il muro, perché dico: ma perché non immaginare che i grandi gruppi della distribuzione italiana fanno la stessa cosa? È possibile immaginarlo questo secondo lei, oppure è ancora un obiettivo troppo distante dalla vostra portata? No, assolutamente è un grandissimo tema quello che lei solleva. È indubbio che fra catene distributive italiane esiste concorrenza e competitività, ma è anche indubbio che laddove è necessario e possibile cerchiamo di avere delle relazioni corrette. Io sto andando a una riunione appunto di un organismo che si chiama Indico DCR, dove abbiamo indubbiamente tutte le industrie distributive e tutte le catene di distribuzione, tutte le industrie produttive, quindi Barilla, Ferrero, sono concorrenti che si siedono attorno al tavolo con Coop e anche Esselunga per provare a capire come affrontare in termini di efficienza, ma non solo, questo sistema italiano. Quindi i temi di collaborazione strategica non vanno mai allentati, anche se esiste la competitività. No, esiste la competitività, non si tratta di fare cartello, ma sull'estero, vi prego, facciamo sì, qualcosa. Ecco. Su questo tema credo che Coop è indubbiamente per sua fisionomia statutaria, è una realtà che deve essere fortemente radicata col territorio e le persone, e quindi difficilmente il nostro modello può essere esportato, il nostro modello italiano. Certo. Però è vero che noi in Europa abbiamo una cooperazione, proprio una Coop di consumo che è molto forte, che presenta 70 miliardi di fatturato e 40 milioni di soci. Allora io cosa sto proponendo al mondo soprattutto dell'agricoltura italiana? Se io non riesco ad aprire punti di vendita all'estero, però riesco sicuramente con le mie cooperative sorelle che hanno gli stessi valori a promuovere l'ottimo Made in Italy, ma l'ottimo Made in Italy non può essere solo, dico io, un'etichetta, deve avere dei contenuti ovviamente, e sono contenuti di qualità e di valori. E sono tutte quelle cose a cui abbiamo scoperto che anche se il reddito disponibile appunto scende, il consumatore, tentando di ancorarsi a delle scelte di qualità, quelle le difende. Santo Dio, ma troviamo delle cooperative del Partito Comunista cinese pur di aprire. Sto scherzando. Questo è uno scherzo. Noi siamo nati in Inghilterra, dottor Giannino. Tassinari, lo so. Fermo, non mi deve ricordare la storia della cooperazione. Era solo per dire che in Cina, quando gli italiani vanno e vedono i francesi, si mordono un po' le mani. Questo è il punto. Sì, però io sono andato in Cina, le dirò molto che è stato un incontro molto interessante, e dove loro finalmente vedono qualcuno che, oltre a voler vendere, noi andiamo in Cina sempre per vendere, ecco, qualcuno che si presenti, che dica anche vogliamo comprare, e vogliamo comprare con dei contenuti di qualità. Ah, no, valori, questo è giusto, certo. Sono attenti su questo, ecco. Certo. Allora, grazie a Tassinari, grazie allo sforzo che trovate in questo rapporto delle COP. Trovate anche sul portale l'indicazione dell'indirizzo, è troppo lunga per leggere, un po' troppo complesso, è liberamente a disposizione, sono 150 pagine pieno di dati, molto utile. Viaggio nelle tasche che piangono di famiglie italiane che però dicono: non vogliamo morire, abbiamo una prospettiva, la qualità la difendiamo, se la politica non ci uccide anno dopo anno. E c'è un'immediata esplosione di sms qui al 349-238-6666 di ascoltatori che dicono: però a proposito dei problemi della concorrenza e della grande distribuzione, sì, io credo che voi abbiate ragione. Noi stavamo parlando del rapporto delle famiglie curato dalla Coop, non dei problemi della grande distribuzione in quanto tale. La mia opinione fuori dai denti è che nella grande distribuzione e soprattutto nel mondo Coop ci siano grandi e severi problemi di prezzi captive rispetto a chi sta sotto nella filiera. Cioè, in altre parole, i fenomeni attraverso i quali Coop pratica la selezione dei suoi fornitori in questi anni di crisi sono fenomeni veri che hanno a che vedere con il monopolio del prezzo. Questo è un problema serio di tutta la filiera. Ricordate che ce ne siamo occupati più volte in queste trasmissioni, ve lo ricordo solo quando il governo è intervenuto fissando la formalizzazione dei contratti standard e del pagamento in termini di settimane all'interno di questa filiera. Io mi sono battuto contro, ma riconosco che quello è un grande problema del mondo Coop italiano, quindi l'ho sempre scritto, l'ho sempre detto, e quindi lo riconosco agli ascoltatori. Non mi andava con Tassinari di confondere il loro rapporto sulle famiglie con questo, che è uno specifico problema di come è organizzato il mercato in questo settore e come è organizzato il loro mercato anche rispetto ad altre concorrenti loro. Questa è la mia personalissima opinione. Allora, prima di andare nell'ultima parte alle telefonate degli ascoltatori, quindi buoni là perché vi ho già sul mio monitor, un'altra fotografia aggiornata su come stanno andando le cose, non per le famiglie come abbiamo visto nel rapporto Coop, ma per le imprese, perché abbiamo un dato, ci è stato dato da Unioncamere, che l'apparato sensibile di sismico, per così dire, sul territorio più vicino, naturalmente a livello più basso, e quindi ai dati aggiornati su cosa sta succedendo nel sistema delle imprese italiane. E allora, ieri abbiamo visto un dato per cui abbiamo deciso di chiamare Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere, perché il dato parla di un dato di cessazioni di attività nel bimestre luglio-agosto di 41.000 imprese, quindi un dato di fronte al quale io ho detto: io non voglio cedere nel pessimismo agli ascoltatori di Radio 24 che mi rimproverano di essere troppo pessimista, però tentiamo di capirlo, e quindi è con noi Ferruccio Dardanello per spiegarcelo. Buongiorno e grazie al presidente di Unioncamere. Buongiorno Giannino. Allora, questo dato di luglio e agosto, tentiamo di inquadrarlo, una tendenza generale dell'anno, e di capire a chi sta parlando in termini di che cosa si può fare, presidente. Ma in questo momento ancora una volta si vede che sono solo i dati negativi che fanno notizia. È anche vero che lo stesso comunicato stampa nostra dice che nello stesso periodo sono nate 51.000 imprese. Ecco. Quindi il saldo, tutto sommato, anche in questo grande momento di grande negatività, continua a essere sempre ridotto nei confronti degli anni passati, ma un dato positivo. È vero che la situazione economica del mondo dell'imprenditoria sta soffrendo in modo terribile, la crisi, il credito che non c'è, la riduzione dei consumi, il costo delle materie prime, questa tassazione che veramente ci mette fuori del mondo, costringendo addirittura alla chiusura di anche imprese che hanno una storia alle proprie spalle. E non solo, queste nuove imprese che sono nate, è la cosa che mi fa piacere anche raccontare ai vostri radioascoltatori, che in questo mese di agosto, dove solitamente la gente va in vacanza, 51.000 persone sono andate alla Camera di Commercio ad iscriversi per fare impresa. Ecco, sono tutti matti, spericolati, azzardati, oppure ci sono tanti anche in cerca di una soluzione della propria vita, di realizzare un proprio sogno. Ecco, io credo che tutto sommato questo paese, che abbiamo sempre detto che era un paese di poeti, di santi e di navigatori, continua a essere invece fondamentalmente un paese di imprenditori. E se pensiamo che abbiamo 6 milioni di imprese, quindi un esercito, un oceano, un'impresa ogni 10 abitanti, compresi anziani e bambini, la dice tutta come la vocazione all'imprenditoria continua a essere, fortunatamente, io credo anche una soluzione della nostra cultura, del nostro stile di vita, della nostra storia. È vero che qualcuno mi chiede, ma di questi 51.000 ci sarà anche dell'autoimpiego? Ma probabilmente una parte sì, ma perché no? Non è forse meglio che, per quanti hanno perso un lavoro in questo periodo o non riescono a trovarlo, aprire un'impresa sia una cosa utile, piuttosto che aspettare che arrivi Godot? Ecco, credo che questa sia una riflessione che noi possiamo e che dobbiamo fare. E infatti a conferma, aspetti, l'interrompo solo per rafforzare questo punto, che è esattamente una delle obiezioni quando si dice ma più che il saldo totale ovviamente bisognerebbe depurare le nuove posizioni che si aprono dall'autoimpiego, cioè da disoccupati in effetti espulsi dalla produzione che pur di tentare di fare qualcosa aprono una partita IVA. A conferma di quello che dice, c'è un dato proprio relativo a luglio-agosto che avete diffuso ieri, perché le regioni nelle quali l'indicatore di crescita dell'apertura delle nuove posizioni di impresa è più sensibile rispetto all'anno prima, proprio nel semestre estivo, che tradizionalmente insomma è quello che registra un po' di stasi perché si va in vacanza, e del Mezzogiorno, che è quello che vede migliorare il dato di apertura delle nuove posizioni di impresa rispetto all'anno prima. L'ho interrotto, ma era solo a conferma di quello che stavo dicendo. No, addirittura Napoli ha 2.000 imprese in più, ecco, credo che questo sia un dato sicuramente eclatante, ma non solo il Meridione, c'è anche Aosta, ad esempio, che è addirittura dall'altra parte del nostro stivale, che ha un dato estremamente positivo. Poi ci sono le negatività. Io credo che dobbiamo fare una riflessione, dobbiamo dire che l'impresa oggi continua a essere uno strumento strategico del nostro paese. Certo, in questo momento manca la fiducia sia nelle famiglie e sia nelle imprese. Io lo dico da tanto tempo che bisognerebbe che questo governo avesse anche la capacità di prendere il decreto fiducia da affiancarlo al decreto sviluppo, ma credo che la fiducia purtroppo non si possa ancora prendere per decreto. Già. E quindi c'è la voglia e la volontà ancora nostra di reagire, di darci una spinta e di mettere a valore le cose che noi abbiamo, che credo che possano trovare veramente nell'impresa, se vi saranno delle condizioni nuove, che questo decreto sviluppo vada incontro anche all'imprenditoria, perché poi è il motore dal quale parte la produzione, l'occupazione, la crescita e lo sviluppo del nostro paese. Io ringrazio, la devo ringraziare perché dobbiamo andare in informazione stradale. La ringrazio nel chiosare solo questo. Questo governo, che ha dei meriti rispetto al precedente nello stewardship, nella credibilità internazionale, di sicuro sulla fiducia ha commesso degli errori, diciamo così, per impostazione teorica. Vicende, quando si guardano i dati Istat sul perché le famiglie sono al minimo della fiducia da 16 anni a questa parte, la risposta è vicende come quella degli esodati, come quella dell'IMU, per come sono state trattate dal governo, ci hanno portato lo scoramento sotto i piedi. Quindi attenzione, perché prima ancora del merito dei provvedimenti conta il linguaggio che si usa, questo linguaggio freddo, non empatico, di cui Monti ieri si vantava in un'intervista al Mattino, al direttore del Mattino, dicendo: chi mi chiede un linguaggio empatico chiede qualcosa strano al mio carattere. La leadership, quando c'è un paese che soffre, famiglie in ginocchio, imprese che chiudono, si esprime anche con un tono di voce giusto, che sappia, occhi negli occhi, dire al cuore, alla pancia e al portafoglio, all'emotività oltre che alla ragionevolezza della gente: ragazzi, capiamo, l'effetto che stiamo producendo con queste misure. E siamo con voi, tenteremo di darvi coraggio, fiducia, di restituire almeno in parte la fiducia che vi leviamo perché vi picchiamo il portafoglio. Chi non è capace di dire questo non sa che cosa sia la leadership di un paese in difficoltà. Grazie Dardanello. E su This is the End, che oggi è un pochino rispetto agli andamenti di spread un po' meno giustificato, vedremo nei prossimi giorni, so che volete che cambi, a me piace così tanto. Detto questo, un po' di telefonate rapide. Stefano, che comincia dalla provincia di Milano. Stefano, eccoci qua. Buongiorno Giannino, piacere. Sì. La ringrazio per la trasmissione che ha colto in pieno quello che per me sta colpendo, io dico il 90% della popolazione italiana. Lei compresa? Sì, io ho compreso, anche perché devo dire che io e mia moglie lavoriamo, abbiamo una bambina di 20 mesi e le dico soltanto una cosa, se avremo modo in un futuro di commentare quello che è la mia busta paga, le posso dire che la mia tredicesima netto in basso a destra ho avuto 200 euro. Quindi le trattenute che abbiamo noi dipendenti è una cosa veramente pazzesca, anche perché a questo punto era meglio che lo Stato si prendeva tutto, anche se 200 euro mi faceva arrabbiare di meno. Certo. No? Quindi quello che io sto notando è i nostri amici della grande distribuzione, io prima con 100.000 lire andavo alla Coppa, all'Esselunga, quindi ovunque, e portavo a casa due belle borsette di roba, ok? Adesso vado con 50 euro, porto a casa una borsettina e devo dire che ce ne sta dentro ancora di roba. Quindi penso che si stiano nascondendo tutti dietro un piccolo paravento. Quindi lei dice, è vero, c'è un problema, innanzitutto nelle nostre buste paga per lo Stato, ma anche loro effettivamente sui prezzi e su non ci giobbano un po'. Domenico, dalla provincia di Messina. Domenico. Buongiorno, io sono un giocattolaio. Io quello che volevo dire al signore... Aspetti, cosa vuol dire? Lei vende giocattoli, fa giocattoli, vende giocattoli? Vendo giocattoli, sì. E io lavoro direttamente con le aziende, quindi non sono non ho intermediari. Ah, quindi il prezzo che io pratico alla clientela, diciamo, a parte il ricarico, non è alto come acquistandolo da un grossista, ecco. Però io il problema mio è questo, perché nel periodo natalizio tirano fuori un bello puscolino con tantissimi giocattoli sotto costo, i signori, e rovinano il mercato, perché io non dico di guadagnarci, ma almeno partiamo alla pari, cioè costa tanto, uno mette il 10, il 15, il 20, quello che è, anche al costo, però non vendere sotto costo, così rovinano il mercato, signori della Coppa, ma non sono loro. Domenico, io innanzitutto sono affascinato, io spero che ci possa lasciare un numero, perché sono affascinato molto dal fatto che il giocattolaio che lavora a diretto contatto con i grossisti, quindi interpreta anche quello che vogliono i clienti, e non ne sono affascinato per le reminiscenze letterarie o romanzesche, ma perché credo che uno che continua a fare il suo mestiere sia un ottimo piccolo osservatore, da una parte, di come si è modificato nel tempo il comportamento degli italiani su questo aspetto, quello ludico per i bambini con la tecnologia, e dall'altra parte una straordinaria prova di resistenza di una vendita commerciale artigianale, però geniale. È ovvio che la risposta alla sua domanda è: loro hanno grandi quantità, fanno sinergie sui margini, e per loro lei è esattamente quello che deve sparire. Questa è la legge inesorabile del mercato, e per questo io voglio approfondire con lei. Ci lasci il numero, perché il giocattolaio deve tornare assolutamente a spiegarci il suo osservatorio e la sua battaglia per avere margini, perché il genio personale in una catena commerciale riesca a soddisfare la vocazione, la trasformazione del gioco, soprattutto per come i genitori vedono quello dei figli, che non è affatto poi il modo in cui i figli davvero vogliono giocare. Grazie, rapidissimo. Alla fine Claudio, la provincia di Brescia. Buongiorno, sì. Giannino, è sempre un piacere sentirla. Dunque, io credo di andare un po' controcorrente a lei e a tutti gli ascoltatori che ho sentito stamattina. Perché? Beh, per tanti motivi. Dunque, io sono un piccolo imprenditore ramo siderurgia. Partiamo da qui. Prezzi 2000, il rottame costava più o meno 300 lire al chilo, oggi si vogliono più o meno in euro 350 euro. Passiamo poi, vivo in una regione, lei penso che l'abbia capito, che è più o meno la Francia Corta. Sì. Per bere un bicchiere di vino ci volevano sì e no 150 lire, oggi ci vogliono 6 euro per bere un bollicine che di autoctono. Però questo è esattamente quello che diceva il nostro amico all'inizio, quindi i prezzi sono un po' impazziti. Beh, perché è contrario rispetto a questo? Lei dice la crisi non c'è? Io dico la crisi non c'è, guardi, una delle ultime cose che le volevo dire è questa. Una mia amica 2 mesi fa ha aperto un bar in una piccola in un piccolo paesino della provincia di Brescia. E ha fatto successone? Successone? Allora. No, devi andare rapido perché sono pochi secondi. Che si fa vedere quasi in slip con quella famosa gonnellina. È una signora normalissima che la mattina, solo al mattino, fa circa 300 colazioni. Allora Claudio, ci dobbiamo risentire perché è finito il secondaggio e quindi io devo solo dare appuntamento domani. Claudio dice la crisi non c'è, ma i dati dicono il contrario.